7. Ascolta e controlla. 1. Perché siete a scuola? Siamo a scuola per studiare. 2. Come sono i libri? Sono nuovi. 3. Di che colore è la giacca? È rossa. 4. Com'è Renzo? È simpatico.